mentre andavo su, scalando la montagna, sudore di fatica, il mio volto bagna, ancora pochi metri, poi sarò arrivato, un momento, e anch'io ce la farò, e lassù, fra poco giungerò, guardandola negli occhi, ricordo una promessa, la vita quando torno, non sarà la stessa, sentire il mio momento, capire com'è stato un errore, morirò. La mia meta non potrà sfuggire, io fra poco arriverò. Così in alto nessuno è mai arrivato, una stella per te afferrerò, una stella io ti porterò. Soffia il vento, arriva la tormenta, già qualcuno grida e si agita, sgomenta, strana sensazione viverla qua giù, forse lasceranno e torneranno giù, forse smetteranno di andare ancora più su. Passa il tempo, la notte si avvicina, qualcuno ne ricorda, una fredda ed assassina, ricordi di una volta, sapere com'è stato, questa volta come andrà. Strano modo questo di soffrire, fra non molto si saprà. Se lassù il cielo avrà toccato, da una stella lui ci guarderà, se una stella giù ci porterà. Che non è facile scalare la montagna, chi fatica a volte lavora e non si lagna, poco tempo ancora e poi sarò arrivato, ruberò una stella a te la porterò, poco tempo ancora e ti ritroverò, è da tanto tempo che manco una promessa che se mantenuta, una cosa mi è concessa, avere il mio momento per dire com'è stato e al ritorno avrò il tuo amore che mi ha conquistato, per la storia io sarò sempre in alto fin dove sono stato, un momento che ricorderò, nel futuro si racconterà e con te adesso volerà.